e Denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Chi mangia Würstel, salsicce, bacon, salumi in genere correrebbe gli stessi rischi di chi fuma. Non si fa che parlare di questa notizia, l'avrete sicuramente letta, ascoltata, immagino avrete ripercorso mentalmente quello che avete portato a tavola nell'ultima settimana e soprattutto quanto questi prodotti sono presenti e ricorrono nella vostra lista della spesa. Allora 800 24 00 24 senza allarmismi però, per dirci se siete consumatori abituali di questi prodotti, delle carni lavorate in genere, perché su questa che l'OMS si è espressa puntando il dito e classificandole come cancerogene, ma diteci anche se consumate carne fresca e carne rossa fresca, in che quantità, quante volte alla settimana. Ma in pieno stile Cuore Denari noi vogliamo anche provare a vedere l'altro lato della medaglia e quindi raccontateci anche quali sono gli alimenti, i prodotti che consumate, inserite nella vostra dieta, perché siete consapevoli anche del loro potere antitumorale. 800 24 00 24 è un'occasione questa, al di là degli allarmismi, per così, no Deborah, riguardare un po' la nostra dieta, il nostro stile alimentare. La dieta però, ricordiamo, fa parte del nostro stile di vita. Temi di attualità che fanno certamente dibattere e anzi anche un po' discutere. Avrei visto peraltro, proprio a proposito di questi temi di attualità che provocano discussione, le immagini di quei dipendenti che a Sanremo timbravano cartellini dei colleghi, non rispettavano gli orari e uscivano per farsi gli affari propri. Ecco, esatto. Mi ricordo di questa immagine del dipendente in canoa. Esatto, dopo aver timbrato il cartellino, il vigile urbano invece che in pantofole e mutanda andava a timbrare per sé e per altri. Allora, sono proprio purtroppo episodi di assenteismo come questi che ci fanno dubitare che l'Italia sia pronta a cambiare mentalità, ad evolversi pensando ad un'organizzazione del lavoro più moderna, oppure chissà, forse proprio un nuovo modello potrebbe impedire ai più disonesti di fare i furbetti e premiare il merito e l'efficienza. Oggi nella pagina di Denari torniamo a parlare di smart working, il cosiddetto lavoro agile che punta sulla flessibilità, su una gestione più elastica degli orari e degli spazi, mantenendo saldi gli obiettivi e i risultati attesi. Con la legge di stabilità potrebbero arrivare delle norme che lo regolano in modo molto preciso. Intanto 800 24 00 24, raccontateci voi come la pensate, come cambiereste l'organizzazione del vostro lavoro per renderlo più vicino alle vostre esigenze di vita, ma anche più produttivo. 349 238 6666, il numero per i vostri messaggi. La notizia era circolata venerdì sulla stampa britannica, ieri è arrivata la conferma e l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro di Lione, massima autorità in materia di studio degli agenti cancerogeni, ha inserito le carni lavorate fra le sostanze che possono causare il cancro. La classificazione è stata pubblicata su una rivista molto prestigiosa, The Lancet Oncology, dopo aver pensato e revisionato oltre 800 studi epidemiologici che indagavano l'associazione fra carni rosse e insorgenza di cancro in tutto il mondo. Oggi ne parliamo col dottor Saverio Cinieri, che è direttore dell'unità operativa complessa di oncologia medica e breast unit dell'ASL di Brindisi e tesoriere nazionale dell'AIOM, un'associazione che citiamo spesso insieme a Deborah e i dati che soprattutto ci fornisce dell'Associazione Italiana Oncologia Medica. Dottore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Un uomo di Cuore Denari, mi verrebbe da dire, visto che fa il tesoriere di questa associazione, no, proprio me l'ha fornita su un piatto d'argento. Fantastico. È stato nominato soltanto sabato. Ah, però. E quindi fresco. Allora, dottore, Würstel, salsicce, bacon and company ci fanno correre gli stessi rischi per la nostra salute del fumo e del benzene. La notizia è chiara, le carni lavorate sono state infatti inserite nel gruppo delle sostanze che causano il cancro a pericolosità più alta. Ma che cosa intende esattamente l'OMS per carni lavorate, dottor Cinieri? Perché a leggere l'articolo sembra che la categoria sia piuttosto ampia. Beh, assolutamente sì, innanzitutto dobbiamo chiarire che l'OMS fa questo lavoro da anni e il gruppo in cui sono state inserite le carni lavorate è il gruppo 1A, quelle che sono cancerogene, insieme, è bene ribadirlo, al benzene, al fumo di sigaretta e all'alcol, oltre altre 118 sostanze. tra cui anche dei farmaci che usiamo in oncologia. Detto questo, le carni lavorate. Quindi è in buona compagnia, mi sta dicendo. Assolutamente sì, è in buona compagnia. Consideri che nel gruppo 2A, quello della carne rossa, ci sono 75 sostanze circa, ci sono 503 sostanze non classificate e una sola sostanza, che è un estratto della plastica, che è sicuramente non cancerogena. Quindi il lavoro da fare su questo argomento è lungo. Ma tornando alla sua domanda, le carni lavorate sono le carni che vengono trasformate, sono carni di maiale, manzo, ma anche altri tipi di carne rossa, carni bianche come il pollame, le frattaglie, i prodotti derivati dalla carne come il sangue, sono lavorati attraverso processi di salatura, polimerizzazione, fermentazione, affumicatura, oppure sottoposti a processi per aumentarne il sapore. O migliorare la conservazione. Devo dire che per aumentare il sapore spesso si usano degli enhancer tipo il glutammato di sodio, che è comunque un sale, e quello che ne deriva sono gli hot dogs, per esempio, il prosciutto, le salsicce, le carne in scatola e tutte le preparazioni a base di salsa di carne. Quello che l'OMS e lo IARC non dicono e non fanno il punto è sulla qualità, per cui della lavorazione delle carni. Fondamentalmente sono i prodotti industriali di alta industrializzazione che vengono a essere messi in evidenza in questo studio, ma soprattutto ci si riferisce a 800 studi pubblicati negli anni, esaminati dai 22 esperti a Lione, che sono studi anche vecchi, in cui la percentuale di conservanti tipo nitriti e nitrati era molto alta, perché nel passato si usava molto il nitrito e nitrato e nelle preparazioni attuali se ne usa molto meno. E soprattutto nei prodotti cosiddetti artigianali o cosiddetti biologici, se ci si sta attenti, quindi prodotti di qualità più elevata, la quantità di conservanti è sicuramente inferiore. Dottor Cinieri, quindi grazie per averci dato lo spunto per questa lettura. Quindi sono anche un po' degli studi datati, quelli che sono stati presi in esame, quindi questo deve un pochino spegnere il nostro allarmismo, ma io credo che questa la notizia che di oggi ci permette un po' di fare il punto della situazione sul nostro stile alimentare, ma il nostro stile di vita. Per questo ho invitato i nostri ascoltatori, rinnovo l'invito, a raccontarci quante, come, con che frequenza consumano le carni lavorate, ma anche la carne fresca e la carne rossa, ma anche di raccontarci che cosa, no? con quali altre sostanze compensano la loro dieta, i legumi, la frutta, la verdura, perché no, è un mix, la nostra dieta non è fatta solamente di alimenti buoni e alimenti cattivi, ma è proprio l'integrazione dei vari prodotti che riesce poi a fornire al nostro organismo tutto quello che ha bisogno e svolgere anche delle azioni protettive. Ma dottor Cinieri, non si finisce nel libro nero, in questo caso nel gruppo 1, per caso, no? Naturalmente ci sono delle evidenze alla base di questa scelta. Quali sono quelle che hanno portato a questa decisione? Lei ha sottolineato, alcuni studi sono un po' datati, adesso i nitriti e i nitrati sono, no, aggiunti in quantità minore, ma dottor Cinieri, sta di fatto che le carni lavorate sono in questo primo gruppo. Ma assolutamente sì, sono in questo gruppo, però se vuole le do alcuni numeri che possono essere utili ai nostri ascoltatori. La ringrazio. I morti per cancro, l'esposizione dovuta all'esposizione a sostanze, questa è una fonte OMS, sono sicuramente intorno a 1 milione per anno per dovuti al tabacco e 600.000 all'alcol, inferiore intorno a 200.000 all'inquinamento, e al momento noi abbiamo una percentuale dell'1% alle carni lavorate e alle carni rosse, il che vuol dire che queste percentuali ci fanno capire la differenza tra i vari carcinogeni con cui noi abbiamo esposizione. Questo è importante, perché noi dobbiamo fare educazione alimentare. L'educazione alimentare significa spiegare ai nostri ascoltatori che fondamentalmente non bisogna fare allarmismi. Le carni rosse, più che le carni lavorate, contengono delle sostanze nutritive di elevato valore. Infatti, chi fa un'alimentazione esclusivamente vegana dovrebbe cercare di capire se è necessario supplementare con il ferro la propria dieta. Non sempre si fa un'alimentazione così intelligente, per esempio usando i legumi in maniera abbondante o le verdure verdi intense, le verdure di questa stagione tipo le rape, che contengono una quantità sufficiente di ferro, ma comunque inferiore alla quantità di ferro che viene contenuta nelle carni. Il ferro è importante per il nostro sviluppo. Le volevo dare anche un'altra informazione che riguarda un po' gli italiani, se posso. Sì. I salumi preferiti, o le carni meglio, sì, i salumi meglio preferiti, sono fondamentalmente questi: 25% di prosciutto crudo e cotto, scusi, 24% di prosciutto crudo, 21% i salumi che piacciono di più, le preferenze, mortadella e wurstel, 9% salami, 1% bresaola e altri salami in genere il 20%. Questo che vuol dire? Il prosciutto cotto, come dice la stessa definizione, è cotto. La mortadella, tanto attaccata da un punto di vista alimentare, fondamentalmente è un prodotto lavorato e cotto. Se la mortadella è fatta con i principi biologici sani, non penso che sia un alimento così tossico come potrebbe quindi essere. Quindi ci vuole, mi sta dicendo dottor Cinieri, che è un problema di qualità e anche di quantità. Come sempre. Sì, sì. Allora, abbiamo già tanti ascoltatori che sì, si mettono in contatto con noi, vi ringrazio perché proprio vogliamo aprire i nostri microfoni, mettere a disposizione anche i nostri esperti pronti a rispondere alle vostre domande e a così fornirvi i dati e la lettura di questi dei lavori, che a volte per i non addetti ai lavori risulta un po' difficile, scusate la ripetizione. 800 24 00 24, abbiamo Antonella dalla provincia di Rieti, che prima di farci la domanda viene a sentire con noi le informazioni sul traffico. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Cuore e Denari. Stiamo commentando insieme a Deborah e al dottor Cinieri e ai nostri ascoltatori l'allarme che è partito dall'OMS, che ha inserito le carni lavorate e quindi wurstel, salsicce, prosciutti, salumi, carne in scatola, dottor Cinieri, tutte più ne le ha, cose più ne metta, ecco, tutte mondo. Le cose nella fatidica gruppo 1 di sostanze cancerogene. Abbiamo anticipato che avremo aperto naturalmente i microfoni ai nostri ascoltatori. Abbiamo subito Antonella che ci ha accompagnato a sentire le informazioni sul traffico, che adesso ci racconta. Che buongiorno Antonella dalla provincia di Rieti, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, grazie per avermi richiamato, perché era già un po' che volevo chiamare e c'avevo questa cosa da dire urgente, perché a me pare che si dia sempre troppa poca attenzione alla qualità degli ingredienti. Sì. Il dottore lo stava dicendo prima, il problema vero è da dove, cioè io vorrei sapere cosa hanno mangiato gli animali che poi producono queste carni, perché certo che se noi prendiamo la carne a 3 euro al chilo al discount, che viene da macelli di non si sa dove, anche italiani, perché allevamenti, scusate, macelli, scusi, anche italiani, dove gli danno antibiotici, cortisone per farle gonfiare, e che più ne ha più ne metta, e ci mangiamo delle Beh, cioè, infatti, Antonella, c'è comunque una legislazione, ma adesso non vorrei fare di ogni erba un fascio. Il discorso è che lei lo sottolineava bene, assolutamente in linea con quanto ci diceva il dottor Cinieri, è che è un discorso di qualità e di quantità. Le due, no, vanno comunque a braccetto. Dottor Cinieri, Antonella ha concluso il suo intervento, vuole aggiungere? Sì, solo una cosa. Sì. Persino le verdure, quelle che il dottor Cinieri citava, possono fare male se sono piene di fertilizzanti, certo, diserbanti e pesticidi. Per questo io ho anticipato dicendo non c'è il cibo buono in assoluto e il cibo cattivo in assoluto. Dottor Cinieri, che cosa, sì, come mi commenta? Antonella è assolutamente sulla sua lunghezza d'onda. Ma è assolutamente evidente, anzi ringrazio Antonella per quello che ha detto. È evidente che produrre carne per un mondo in continua crescita, in cui i consumi sono in costante escalation, spinge alla ricerca di soluzioni rapide, di scorciatoie che consentono una produzione veloce, meccanizzata, standardizzata, e quindi vediamo allevamenti con centinaia o migliaia di capi di bovini, mentre per i pollami, la famosa carne bianca, non è inserita su queste liste dell'OIARC, si arriva tranquillamente a decine di migliaia, animali che sono che vivono in spazi angusti, che obbligano quindi i produttori a un utilizzo massiccio di antibiotici per non farli ammalare, dove devono essere amputate le corna, i becchi o le code per non farli ferire, dove gli escrementi sono talmente tanti che non è possibile utilizzarli come concimi, anche perché qui non ci sono i prati da concimare, gli animali vivono in delle gabbie e non si devono muovere perché devono produrre molta carne, una carne ricca di grassi per favorire una rapida crescita. Questo è un modo sbagliato di mangiare carne. Questo modo è quello che dobbiamo evitare. Ci sono dei dati molto interessanti sul consumo degli italiani con la carne, che vanno quelli pubblicati per esteso dall'81 al 2014. La carne bovina si mangiava nell'81 25-26 kg a testa. Nel 2025, nel 2014-20, la carne, quindi c'è un decremento importante, c'è un incremento del pollame da 18 kg circa nell'81 a 19 nel 2014, non è un incremento importante ma c'è un incremento importante per la carne suina da 25 kg nell'81 a 38 nel 2014. Cosa vuol dire questo dato? Che un minimo di attenzione a quello che mangiamo nel nostro paese già esiste. Però dopo la guerra c'è stato un quadruplicarsi, dopo la guerra intendo la seconda guerra mondiale, un quadruplicarsi del consumo di carne. Gli italiani mangiavano negli anni 70 7 kg anno, adesso ne mangiamo 50-60 kg anno di carne. Questo è frutto di una politica sociale in cui non mi riconosco, per cui mangiare carne fosse un risultato sociale, un po' come avere l'ultimo tipo di smartphone adesso. Che vuol dire ciò? Che gli italiani hanno fatto un errore strategico, perché mangiare carne significa essere sufficientemente ricchi da comprarla. Certo, adesso ma nello stesso tempo il prezzo della carne è calato perché sono aumentati questi allevamenti intensivi. Dobbiamo tornare a mangiare carne di qualità, ma ha ragione l'ascoltatrice, le verdure vanno mangiate in stagione. È inutile mangiare il pomodoro tutto l'anno, mangiamoci la fragola a dicembre, ecco, perché? Anche perché il pomodoro tutto l'anno non sa di pomodoro, ecco. I pomodori invernali hanno un sapore diverso dai pomodori cresciuti, certo, al sole. È inutile mangiare, dovremmo privilegiare quegli alimenti di tipo vegetale a questo punto, che esistono soltanto per un periodo dell'anno. Certo. Ce ne sono, insomma, tanti. Farci guidare un po' dai ritmi della natura. Allora, ritorniamo al tema, il dottor Cinieri, molti ascoltatori ci scrivono, sono d'accordo con lei e soprattutto apprezzano questa questo suo evitare allarmismi, spegnere un po' gli allarmismi, insomma. Il buon senso dovrebbe comunque guidarci nelle nostre scelte di vita e anche nella scelta degli alimenti da portare a tavola. Ma torniamo un po' indietro. Carne lavorate, abbiamo detto, inserite nel primo gruppo della Eat Parade, delle sostanze cancerogene, ma gli altri posti da chi sono occupati? Ne parliamo con la professoressa Adriana Albini, che è direttore del laboratorio di biologia vascolare dell'IRS Multimedica di Milano e Sesto San Giovanni. Buongiorno professoressa Albini. Benvenuta. Benvenuta, bentornata. Buongiorno. Buongiorno, grazie, torno sempre volentieri. Professoressa Albini, allora, com'è classificata la Eat Parade dei cancerogeni? Ne stiamo discutendo con il suo collega dottor Saverio Cinieri dell'AIOM. Sì, infatti noi parliamo del lavoro della IRC, che sono molti anni, decine di anni, che classifica varie sostanze trovate nell'ambiente, nei cibi, anche vari processi, situazioni ambientali, e fa una classifica di gruppo 1, che sono le sostanze cancerogene per gli umani, il gruppo 2, che sono probabilmente cancerogene, 2A, e poi possibilmente cancerogene, sono i 2B, e poi con rischi sempre minori, fino al gruppo 4. Nel senso che il gruppo 4, quelle che non sono cancerogene, ce n'è praticamente solo una, quindi è chiaro che questi sono tutti dati per stare attenti alle cose. In questo studio ci sono le carni lavorate, impastate, sono nel gruppo 1 tra i cancerogeni, diciamo, mentre la carne rossa è nel 2, probabilmente cancerogene. Professore Salbini, ci fermiamo per le informazioni del nostro GR e ritorniamo subito dopo insieme al dottor Cinieri alle vostre telefonate. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da... Scegli Pantera col TH. Scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Oscar ce l'ha con te questo. Ma no, ce l'ha con no, te, no, ce l'ha con te, dai. Ma non è vero, dai. Allora, ce l'ha con tutti e due. Ah, sì, perché c'è una grande novità. Dal lunedì al venerdì alle 8:15 su Radio 24 c'è Attenti a noi due. Che poi siamo noi due, Oscar noi Giannino due. E Alessandro Milan. Non perdetevelo su Radio 24 dalle 8:15 lunedì e venerdì. Attenti a noi due. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. Cuore e denari. E siamo ritornati insieme. Eccoci, oggi ritrovati, sì. 800 24 00 24, un numero verde per parlare della vostra dieta. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Saverio Cinieri, che è direttore dell'unità operativa complessa oncologia medica e Breast Unit ASL di Brindisi, oltre che tesoriere nazionale dell'AIOM, l'Associazione Italiana Oncologia Medica. Abbiamo perso strada facendo la professoressa Adriana Albini in collegamento da Bruxelles, ma la linea era molto disturbata. Vi invito oggi ad andare sulla pagina di Cuore Denari, dove potrete ascoltare una sua intervista che raccoglieremo subito dopo la chiusura della nostra diretta. 800 24 00 24, stanno fioccando le telefonate. Dottor Cinieri, insomma, diciamo la verità, che le carni lavorate non fossero i pilastri di una dieta sana ed equilibrata già lo sapevamo, no? Molti ascoltatori ci scrivono, ma sono tutte notizie che già si sapevano, come il consumo di carne rossa fosse correlato ad un aumentato rischio dell'insergenza di alcuni tipi di tumore, tra cui ad esempio il tumore del colon, già si sapeva. E allora, che cosa c'è di nuovo, dottor Cinieri, in questa notizia, se tutto già si sapeva? Beh, innanzitutto la notizia nuova è che vengono inserite ufficialmente le carni lavorate in una lista di cancerogeni praticamente certa. L'altra che le carni rosse vengono inserite in una lista di presunto, di probabile, in cui aspetteremo nuovi dati. Noi lo sapevamo, lo sanno i nostri ascoltatori, lo sappiamo noi, lo sanno gli esperti di oncologia. Però consideri anche una cosa, su questo tema più se ne parla e meglio è. Io organizzo da 3 anni un congresso su stile di vita, alimentazione e cancro qui in Puglia, che il primo anno, quando avevo fatto un piccolo comunicato stampa, è stata la notizia più cliccata sulla pagina online del Corriere della Sera. Che vuol dire questo? Vuol dire che che c'è molta attenzione da parte degli ascoltatori più evoluti su questo, ma se lei si guarda intorno e va in un bar discount oppure su un supermercato qualsiasi e guarda quello che la gente compra quando esce fuori col carrello della spesa, si spaventa. Perché io sono molto più preoccupato che di un uso improprio dei salami e delle salsicce, visto che in Italia non facciamo colazione con le salsicce e col bacon e non mangiamo giusto tutti i giorni. Sono molto più preoccupato, per esempio, dell'uso delle merendine per i bambini. È molto più semplice, costa anche meno fare in casa una merenda sana. Basterebbe un po' di pane e il nostro olio. Olio di oliva, anche se lì bisognerebbe aprire tutto un altro discorso. Deve tornare, dottor Cinieri, lei deve trasferirsi in pianta stabile qua a Cuore Denari. Vengo con piacere, l'importante è che ci organizziamo come abbiamo fatto oggi e mi fa piacere, perché su questo argomento c'è molto interesse, ripeto. Io sto cercando di elaborare un libro che non deve essere un libro di ricette, visto che anche noi oncologi medici scriviamo solo libri di ricette. C'era una mostra su questo da me organizzata al Nazionale di Iowa la settimana scorsa, su tutto quello che è stato pubblicato, 15 libri su nutrizione e cancro. Beh, invece secondo me ci vuole un libro che sia chiaro e che sia proprio un libro rivolto a tutti. prodotti, cioè che non vada in commercio distribuito tramite un grant delle aziende farmaceutiche, delle companies, che sia proprio un libro che la gente a un prezzo civile possa acquistare con delle indicazioni chiare. Ci sono tante notizie in giro. Quindi lei oggi me ne ha sparata un'altra, dottor Cinieri, perché io dovrei, ecco, più più degli affettati a lei preoccupa, e lei è il dottor Cinieri, quindi non è l'ultimo arrivato, mi preoccupano le merendine. Quindi alle mamme all'ascolto, ecco, due indicazioni per una dieta varia ed equilibrata, perché poi torniamo sempre lì, noi ogni giorno, no? Ritorniamo a dire che non c'è un alimento che ci danneggia, no, che è tossico, ma è proprio la ripetizione, la quantità l'abuso e la qualità di questi alimenti. Allora Angela dalla provincia di Novara e poi Fosco da Roma. Angela, devo dare prima la parola a Fosco perché da un po' che aspetta, poi arriviamo da lei. Fosco, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. Niente, devo manifestare la mia meraviglia per il clamore che ha avuto questa notizia. Io ho sofferto e operato di un carcinoma all'intestino e già 13 anni fa i professori che mi operarono, che provenivano per la verità da studi anche negli Stati Uniti, e mi dicevano che era la cosiddetta cancer revenge, e che le indagini epidemiologiche fatte negli Stati Uniti, statistiche, dimostravano la correlazione tra le abitudini. Quindi Fosco, anche lei è del partito dei nostri ascoltatori che ci sta scrivendo, ma già lo sapevamo, molti ci dicono sentendo Cuore Denari, noi eravamo già informati da tempo e questo ci fa piacere. Beh, diciamo che le tue battaglie le hai cominciate molto prima. No, sulla dieta, insomma, avevamo tutto, avevamo la dieta mediterranea e poi passetto dopo passetto ce ne siamo allontanate e quindi no, abbiamo cambiato idea e dieta, cibi con tempo erano mangiati soltanto occasionalmente, come molti alimenti di origine animale, a cominciare dalla carne, ma anche dal latte che era difficilmente conservabile, oppure che non erano neppure conosciuti, come lo zucchero, le farine molto raffinate, sono diventate un nutrimento quotidiano e da qui i problemi. Andiamo ad Angela dalla provincia di Novara e poi a Carlo da Milano e poi salutiamo il dottor Cinieri che lo lasciamo andare a lavorare. Angela dalla provincia di Novara, buongiorno. Io riporto la mia esperienza, io sono vegetariana, piccenta, però ho due bambine piccole, allora mi sono posta il dubbio di cercare, diciamo, un compromesso tra il mio bisogno comunque etico e anche una questione salutare di dare una carne sana alle bambine, che comunque non do più di due volte alla settimana. Allora ormai io da tempo ho il mio macellaio di montagna, quando arriva questo periodo, quando c'è la fiera di San Giuseppe, che i contadini scendono dalle Alpi in alto, portano giù il bestiame agli alpeggi più bassi, la vacca vecchia, quella che comunque ha già trascorso 8-9 anni di vita, per l'80% al pascolo, quindi si è nutrita di erba sana, non inquinata perché non esistono le macchine, io da lui prendo un tot di carne, di chili di carne che mi bastano per tutto l'inverno, che non sono poi tanto, e io do le mie figlie quella carne lì. Due volte alla settimana, quindi non è che ne prendo un'esagerazione, costa meno, perché costa meno. Sa quello che Angela dice, scelgo bene, sono tranquilla, spendo meno. Vedi, Angela è veramente un'ascoltatrice Cuore Denari che io premierei con un libro, sei d'accordo? Guarda, proprio neanche ne dobbiamo discutere. Dottor direi. Cinieri, cosa dice? Si merita un libro di Cuore Denari? Perché Angela è attenta alla salute, ma attenta anche al risparmio. È un profilo perfetto. E alla qualità, esatto. Si merita sicuramente un libro, ma si merita anche un commento, quello che dicevamo all'inizio, e la qualità di quello che mangiamo è fondamentale. Io non demonizzerei né la carne né a questo punto alcuni insaccati tipici della nostra tradizione italiana, però le nostre nonne dicevano che quello che spendi quello che mangi, cioè nel senso che bisogna cercare di comprare cose di qualità che non sempre costano di meno, non tutti abbiamo la fortuna di avere di abitare vicino alle malghe, quindi di poter comprare quel tipo di carne, però bisogna stare attenti quando si fa la spesa. Secondo me è importante, questo studio redatto dall'OMS ha avuto una grande forza di impatto sulle persone che finalmente hanno capito che c'è da fonte autorevole delle evidenze su un prodotto di consumo così esteso e diffuso, però deve fare bene a tutti noi. Non dobbiamo essere isterici, dobbiamo essere razionali. Non abbiamo parlato per brevità di tempo sulla necessità di consumare la carne rossa in modo intelligente, perché il barbecue, le carni molto cotte, la parte bruciacchiata della carne sono quelle che contengono le sostanze più tossiche, ma dobbiamo anche pensare che in paesi in cui il barbecue o il modo di cucinare la carne, tipo l'Argentina, l'asado, il famoso asado argentino, c'è un'incidenza altissima, non c'è un'incidenza altissima di cancro del colon, perché loro supplementano con verdure. Mangiare un'insalata insieme alla bistecca è sicuramente, lo dice anche Berrino, che in questo è molto... Il grande Franco Berrino, stracitato dagli ascoltatori, che ci ha accompagnato in tantissime puntate, in tempi non sospetti, diciamo, diamo a Cesare quel che è di Cesare, il grande Franco Berrino, le puntate sono solo da ascoltare sul nostro archivio. Lei diceva, dottor Cinieri, così... relativamente da poco con Franco, e devo dire che lui fa una situazione normale. Probabilmente non mangia, sicuramente non mangia la carne, però mangiava con me le stesse cose che abbiamo mangiato a cena insieme. Certo. Ha trascurato soltanto di mangiare la cassata siciliana perché la sua attenzione è più, eravamo a Palermo, è più intensa nei confronti degli zuccheri raffinati. E su quello c'ha ragione, ma d'altronde quante volte abbiamo detto in queste trasmissioni che la farina conservata contengono muffe, le farine conservate. Le muffe sono sostanze tossiche. La carcinogenesi, questo rispondo anche all'ascoltatrice, non è un fenomeno uno e via. È un fenomeno che si instaura con tanti piccoli insulti quotidiani, che è il motivo per cui il fumo di sigaretta aumenta il rischio di cancro. Quindi se noi cambiamo in parte, soltanto in parte, le nostre abitudini alimentari, cercando di prodotti di qualità, prodotti più artigianali, mangiandone di meno, integrando con quello che abbiamo detto, mangiando le frutte, la frutta e la verdura di stagione, probabilmente faremo un beneficio non solo al nostro benessere fisico quotidiano, perché poi ci bisognerebbe parlare a lungo di tutto quello che riguarda la qualità di vita. Il vino, le faccio un esempio, il vino non è il vino che è inserito dall'OMS come le carni conservate e come il fumo nel primo gruppo, come il fumo di sigaretta. Il vino, se uno beve un bicchiere di vino rosso a pranzo, poi una cena o anche bianco, non gli viene la cirrosi epatica e anche il cancro successivo al patocarcino dopo, ma se beve un litro, mezzo litro a pranzo, una fiasca, cena, una fiaschetta di vino, magari vino conservato male. Dottor Cinieri, è così, abbiamo risposto anche a Carlo da Milano, che no, a cui non riesco a dare la linea, ma l'anticipazione della sua domanda è: la carne non si può mangiare, il pesce contiene il mercurio, le verdure contengono i pesticidi, e allora mangiamo? Cosa dobbiamo mangiare? Tutto, di qualità? Poco di tutto, troppo di niente. Com'è il piatto quello di Ungaro, Valerzi, anche speciale, della Michelle Obama, cioè, esatto. Allora, dottor Cinieri, grazie per essere stato con noi, per averci aiutato a leggere la ricetta, la ricetta di una lunga vita, che senza allarmismi. Ci sentiamo presto. A presto, grazie, complimenti per la sua chiarezza e grazie per essere stato con noi, buon lavoro. Grazie a lei e buona giornata a tutti gli ascoltatori. Allora, volevo intanto, Nicoletta, rispondere ad un ascoltatore o ascoltatrice, ascoltatore Riccardo, che ci scrive su cuoredenari@radio24.it. Non vorrei che si fosse generato questo equivoco: dove posso comprare il libro Cuore e Denari non esiste, deve ascoltarsi necessariamente tutti i giorni la nostra trasmissione, andare sul nostro sito, sul nostro profilo Facebook se vuole, e lì insomma è una letteratura aperta, sì, nella quale può approfittare Riccardo. È un libro parlato, esatto, a noi piace molto parlare, chiacchierare, ma anche soprattutto ragionare. Adesso cambiamo argomento, per la pagina di Denari parliamo di un tema anche questo di grandissima attualità, di lavoro, di un modello di lavoro più, possiamo definirlo così, elastico, sentite. Sì. Oh yeah! Più flessibilità per cambiare gli schemi a cui il mondo del lavoro è ancora troppo ancorato. Sono i principi del lavoro agile o smart working, che propone nuovi modelli di organizzazione degli orari, degli spazi di lavoro, restando sempre ben ancorata ai risultati e agli obiettivi, ma allontanandosi sempre di più dalla vecchia concezione del cartellino da timbrare e delle 8 ore da passare seduti alla scrivania. Più elasticità, quindi, con la possibilità di lavorare anche al di fuori dei locali aziendali, grazie ai dispositivi elettronici, per una nuova idea di lavoro che riduce gli spostamenti e si concilia maggiormente con la vita privata, oltre a portare anche sostanziosi benefici economici e riduzione delle emissioni inquinanti. Mentre molti si chiedono se l'Italia possa essere pronta a cambiamenti di questo tipo, per regolare lo smart working potrebbe presto arrivare un decreto. 9 articoli a corredo della legge di stabilità. Parola chiave volontarietà, con la possibilità data al datore di lavoro e al dipendente di accordarsi a seconda dei casi, a parità di stipendio e copertura assicurativa. Il tema della flessibilità al centro del dibattito politico-economico a 360 gradi, dunque non riguarda soltanto le pensioni ma anche il rapporto di lavoro. Come avete sentito, cosa intendiamo? Stiamo parlando di questa novità importante contenuta in questa misura collegata alla legge di stabilità, un provvedimento in cui si cerca di regolamentare lo smart working, quella forma di lavoro, ne abbiamo parlato appunto nella nostra scheda, definito agile dalla legge, che si colloca a metà strada fra la prestazione classica svolta dentro l'azienda e il telelavoro. Quella prassi, consentita eccezionalmente da poche aziende, diventerà dunque legge per fare in modo che possa diventare modalità diffusa e strutturata di organizzare la vita lavorativa. Noi ne abbiamo già parlato qualche settimana fa a Cuore Denari, ma visto che entro poco tempo questa opportunità potrebbe aprirsi per migliaia di lavoratori, vogliamo oggi cercare di capire le ricadute concrete ed operative di questo provvedimento del quale appunto stiamo parlando. Cosa deve fare un lavoratore per chiedere di lavorare in modalità agile? Cosa dovrà fare in prospettiva quando il provvedimento sarà definitivo e varato appunto in via definitiva? Cosa cambia anche nella retribuzione? Vantaggi e svantaggi per l'azienda? E quali sono soprattutto le aziende più adatte ad offrire questa opzione per il lavoratore? Perché immaginiamo che il nostro tessuto economico produttivo, fatto di tante piccole e medie aziende operanti nel comparto manifatturiero, magari faranno più difficoltà di quelle che operano nel settore dei servizi. Cosa ne pensate? Vi sentite smart worker? 800 24 00 24. Ha sentito che bel piatto che le offro? Professor Mariano Corso, responsabile scientifico dell'Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano. Benvenuto. Grazie, è un argomento fantastico, sono molto contento. Piatto ricco, micifico. Esatto. Tra l'altro, professor Corso, questo provvedimento di legge avrebbe potuto scriverlo benissimo, lei invece lo ha fatto un suo collega, un docente della Bocconi, il professor Maurizio Del Conte, che ci sta lavorando già da moltissimi mesi, è un giuslavorista della Bocconi e ha chiuso appunto il lavoro su alcuni testi del Job Act su una richiesta di Matteo Renzi, e peraltro la sua figura e il suo lavoro sono ricordati questa mattina da un articolato articolo della Stampa in cui si parla proprio di come funziona il lavoro agile, e ne parliamo anche noi. Professor Corso, lei che si occupa proprio di studiare l'organizzazione del lavoro, la prima domanda che le faccio non riguarda l'argomento che approfondiremo, ma mi chiedo che impressione le suscitano le immagini dei dipendenti assenteisti di Sanremo, insomma il loro modo personale di interpretare la flessibilità sul lavoro, come commenta queste abitudini che troppo spesso in Italia abbiamo osservato? Ma guardi, allora, l'indignazione ovviamente viene a tutti noi ed è giusta, però anche tutto quello che è stato il dibattito mi ha fatto pensare che in Italia abbiamo una cultura del lavoro, un'etica del lavoro molto, molto bassa, e anche nella pubblica amministrazione. Cioè, l'antidoto a questo tipo di comportamento non è certo il contrario della... Cioè, il presenzialismo non è certo incatenare alle scrivanie, certo, i lavoratori. Uno veramente si chiede: ma come è possibile che in una situazione del genere non ci fossero degli obiettivi dati alle persone, certo, dei risultati che poi sono stati misurati, e quindi insomma com'è possibile che accada una cosa del genere? E soprattutto, no, che abbia così grande successo anche tutta la rete di connivenza che poi si struttura attorno, no, al comportamento di pochi, che invece naturalmente viene subito prontamente adottato da tutti senza nessun controllo manageriale, perché poi il grande dibattito che abbiamo visto in questi giorni è ruotato anche attorno a questo: manager, dirigenti, vertici che non controllano l'operato dei sottoposti. Professor Corso, andiamo alle questioni più utili di cui vogliamo parlare questa mattina, no? Al provvedimento sullo smart working. Voi con questo osservatorio del Politecnico di Milano osservate, monitorate da tempo questa nuova tendenza. L'ultimo osservatorio lo avete presentato proprio pochi giorni fa. Allora, spieghiamolo subito ai nostri ascoltatori. Che cos'è lo smart working? Perché definirlo un banale lavorare da casa mi sembra riduttivo. O è davvero semplicemente questo? No, è molto di più. Infatti anche il provvedimento, il disegno di legge va nella direzione assolutamente corretta. Cioè, lo smart working è un modo di fare management nell'impresa, dando più autonomia e libertà alle persone in cambio di più risultati. Quindi ti responsabilizzo sui risultati. Noi oggi vogliamo pagare i risultati delle persone, non la loro presenza fisica in un luogo, E a fronte di questo gli si dà poi, si dà alle persone, di nuovo si restituisce alla persona la possibilità di scegliere dove lavorare, in che orari, con che strumenti, per produrre poi risultati migliori e anche per migliorare la propria vita. Un ripensare il lavoro in un'ottica intelligente, è stato detto più volte, lo avete detto anche voi nel corso di questo convegno dove avete presentato l'ultimo osservatorio. Il convegno si chiamava Smart Working, scopriamo le carte. Lo smart working prende piede in Italia nonostante l'assenza di evoluzioni normative, si moltiplicano i progetti delle imprese che provano appunto proprio a ripensare il lavoro in un'ottica intelligente. Professor Corso, un esperto di diritto del lavoro che ospitiamo molto spesso qui a Cuore Denari, l'amico l'avvocato Giampiero Falasca, qualche giorno fa sul Sole 24 Ore scriveva: l'esigenza di disciplinare questa modalità di svolgimento del lavoro deriva dalla necessità di dare copertura a prestazioni che oggi non trovano una precisa collocazione normativa nel telelavoro. Ma quante persone svolgono in Italia appunto questo telelavoro e possiamo dunque definire lo smart working l'evoluzione naturale di questo? Allora, il telelavoro è una modalità di lavoro completamente diverso, infatti spesso c'è una confusione che dobbiamo subito togliere. Parlare di telelavoro vuol dire che io sposto la sede di lavoro della persona in modo rigido dall'ufficio, dalla postazione di lavoro in azienda, al suo domicilio, quindi a quel punto tutte le caratteristiche che ha lo spazio di lavoro dell'azienda vanno e tutta la sua rigidità vengono trasferite sul domicilio del lavoratore. Lo smart working è una cosa completamente diversa, è la possibilità di scelta, quindi è una flessibilità, non è una gabbia diversa posta in un altro luogo, è la maturità che io riconosco al lavoratore di scegliere cosa è meglio in funzione del tipo di attività che deve realizzare, perché i lavoratori ci dicono, ci hanno detto nelle nostre analisi che quasi la metà delle attività che fanno possono essere svolte meglio, in modo più produttivo, in luoghi diversi. Chiarissimo. Un luogo possibile è la propria casa, ma non è il solo. Non è il solo, ci sono gli spazi di co-working, altro tema di cui parleremo nella seconda parte, ma l'aspetto che interessa molto gli ascoltatori che ci stanno già scrivendo al 349-238-6666 sono altri appunto gli aspetti, le tutele sul lavoro, se mi infortuno che cosa succede? Le retribuzioni come cambiano, posso pattuire qualcosa di diverso con il datore di lavoro, insomma tanti aspetti e quindi le ricadute pratiche di questa novità ve le spiegheremo dopo la borsa, è già tardissimo peraltro. Andiamo tra poco. Cuore e denari. Leggero nel vestito migliore, senza andata né ritorno, senza destinazione. Possibile rendere il mondo del lavoro più leggero, più agile a misura della persona, ma ugualmente efficiente e produttivo? Ce lo si chiede anche in Italia, lo stiamo chiedendo questa mattina ad un esperto di smart working, che è questa nuova modalità di organizzazione del lavoro, del rapporto di lavoro, appunto naturalmente sulla base di un accordo che si prende fra lavoratore e datore di lavoro. È Mariano Corso, il nostro esperto di questa mattina, responsabile scientifico dell'osservatorio smart working del Politecnico di Milano. Perché abbiamo deciso di affrontare questo argomento? Perché è in via di approvazione questa misura associata alla legge di stabilità che con 9 articoli disciplina proprio il funzionamento di questo nuovo strumento. 800 24 00 24 il numero verde per raccontarci. Intanto, se ne avete sentito parlare, che cosa ne pensate? Se naturalmente vi ha anche attirata l'idea, esatto, sai che stavo pensando un po' a me e te, no? Uscite di qua e continuiamo a fare le nostre telefonate di lavoro, molte relazioni con l'esterno per organizzare tutte le nostre interviste, tutta la nostra attività. Noi siamo smart worker fuori e dentro, direi, per cui forse chissà se potrebbe andare bene per il nostro tipo di lavoro una modalità di organizzazione come questa, perché, professor Corso, non sono tutti adatti gli ambiti professionali, no? Ad applicare una modalità come questa. Intanto le chiedo, esiste anche uno spaccato del pensiero delle aziende italiane? Sono contente di offrire questo strumento ai lavoratori? Voi le avete monitorate con il vostro osservatorio? Sì, certo, noi le monitoriamo ogni anno, andiamo a vedere quali sono le iniziative che vengono attuate e anche i risultati di queste iniziative. Quindi possiamo dire che il fenomeno è in velocissima diffusione. Quest'anno tra le grandi, medie e grandi imprese il 17% attua lo smart working, che è una grandissima crescita. L'anno scorso erano l'8%, quindi sono più che raddoppiate le aziende. Ce ne sono un altro 14% che abbiamo stimato che stanno partendo, quindi hanno già programmato le attività. Sì. E poi un altro circa 17% di aziende che ha cominciato su specifiche iniziative di flessibilità, quindi non ancora un programma completo su tutte le variabili, ma sta introducendo alcuni elementi specifici dello smart working. In che settori, professor Corso? Perché io prima facevo questa differenziazione fra chi magari opera nel comparto manifatturiero e magari fa un po' più di fatica, no? A dare questa opzione, questa opportunità ai propri lavoratori rispetto a quelle aziende che magari operano nel settore dei servizi o non e so che cos'altro. E certo. Che mi dice a proposito di questo? Allora, guardi, in realtà i settori in cui lo smart working viene attuato sono ormai tantissimi, cambiano le modalità con cui si attua, ma anche nelle aziende manifatturiere si può attuare lo smart working, innanzitutto perché in un'azienda manifatturiera ci sono tanti mestieri che... Vabbè, magari gli amministrativi possono farlo. Tutta la parte di vendite, di marketing, tutto quello che sono gli staff, ma in realtà oggi anche molte attività che sono quelle che siamo abituati a pensare legate alla catena di montaggio, in realtà possono avere delle forme importanti di flessibilità sia sugli spazi che sugli orari, quindi si prestano molto. Io sono convinto e scommetto che nei prossimi anni avremo un'esplosione proprio nelle aziende di produzione di nuove modalità di lavoro. A patto che naturalmente tutto questo non diventi una moda, perché so che questo è anche una sorta di allarme, insomma, preventivo che avete lanciato. Però, professor Corso, insomma, per la modalità con cui lo stiamo descrivendo sembra il mondo migliore possibile nel quale vivere. È chiaro che a tutti piacerebbe avere un rapporto di lavoro così flessibile con il proprio datore di lavoro, no? Però poi a guardarlo dall'esterno sì, è tutto bello, ma nella concretezza le difficoltà le troviamo. Tra l'altro vorrei anche capire poi proprio concretamente per accedere al lavoro agile cosa bisogna fare, perché il progetto di legge prevede la stipula di un accordo scritto fra le parti. Cercheremo di capire cosa deve essere indicato in questo accordo, ma Paola da Milano è pronta a raccontarci che in realtà non è così facile attuarlo. Paola, benvenuta. Sì, buongiorno, grazie per avermi permesso di intervenire. Ho apprezzato quello che ha detto il professor Corso, appunto, che conosco peraltro perché seguo anche l'attività dell'osservatorio, il Politecnico. Esatto, esattamente. E per quanto mi riguarda, io con la società per cui lavoro mi occupo di applicare questo smart working, questa modalità sugli spazi all'interno dell'ambiente di lavoro, perché anche proprio all'interno dell'ufficio spesso e volentieri noi non ci rendiamo conto che tante cose le possiamo fare non ancorandoci a una scrivania, ma possiamo anche utilizzare altri ambienti che supportano comunque bene tutte le attività che dobbiamo fare. Ci fa un esempio per farlo capire, Paola, perché ci stavamo incrociando lo sguardo con Nicoletta, per esempio. Hai visto il mio sguardo perso? Io non ho capito, Paola. In pratica si cerca di far capire alle persone, tramite dei workshop e quant'altro, che all'interno dell'ambiente di lavoro, per scrivere una mail, quindi è un cambiamento che deve avvenire anche nella testa delle persone, dei dirigenti, dei lavoratori, di tutti quanti, non è necessario che io abbia una postazione fissa, una scrivania, un computer, diciamo, posso farlo con uno smartphone, ad esempio, anche in una zona lounge, anche in una zona di hotel. Ho capito. Quindi all'interno, anche perché i dispositivi digitali oggi sono veramente talmente sofisticati, di lavorare un po' dovunque. Ci possono far scrivere delle mail assolutamente professionali, quindi non avrebbero un problema di questo tipo. Ma Paola, la conclusione alla quale voleva arrivare lei era che trova delle resistenze. Che che non è semplice, perché le persone che noi incontriamo spesso e volentieri, che sono abituate appunto a una modalità tradizionale di lavoro, quindi ad avere una scrivania, una postazione attribuita, già di fronte a questo piccolo cambiamento sono un pochino così timorose, ecco, timorose probabilmente di perdere il posto fisso attribuito. Anche forse per quel motivo là, perché anche io... i riferimenti, ogni cambiamento, lo sa, ne abbiamo parlato tante volte, ci fa paura. Ci vuole un po', no, magari l'ambiente di lavoro ci fa sentire un po' protetti, ecco, insomma, ecco, quell'ambiente che ci tutela a 360 gradi. Professor Corso, le chiedo un commento sulla testimonianza di Paola e poi vorrei sapere da lei cosa bisogna fare per accedere al lavoro agile, perché invece queste resistenze mentali, psicologiche, non le ha, insomma, e invece magari nelle prossime settimane sarà proprio stimolato dalla legge in arrivo ad andare a fare una chiacchierata con l'ufficio del personale per chiedere: senti un po', mi dai questa opportunità? Ecco, Paola da Milano ha assolutamente ragione. Non è facile, non deve essere facile, perché in realtà, per come prima l'abbiamo definito, lo smart working vuol dire non lasciare che le persone stiano a casa uno o due giorni alla settimana. Questo non è una parodia, no? È un puro elemento superficiale, ma invece... Non è un part time, né qualche ora di permesso per andare a concludere un lavoro a casa? Assolutamente no, assolutamente. È un modo molto più maturo di riconoscere alla persona la capacità di scegliere in funzione del tipo di attività che deve fare, dove fare un mestiere, sia dentro l'ufficio, e quindi bisogna dare anche delle... diversi ambienti tra cui poter scegliere al dipendente, ma anche a casa sua o in uno spazio diverso, in un co-working, presso il cliente. Allora, l'essenza sta nella fiducia che io restituisco e anche nella disponibilità del datore di lavoro e del lavoratore a lavorare insieme, a misurare quelli che sono i veri risultati per poi diventare più efficaci. Mm-hmm. Quindi il tutto sta nell'aumento di valore che si riesce a dare venendo incontro anche a quelle che sono le caratteristiche, i talenti, i bisogni delle persone. Questa è la vera essenza, quindi non è facile, ha ragione Paola, è un percorso. Come per tutti i cambiamenti culturali importanti ci vuole del tempo naturalmente, e poi soprattutto attivare delle prassi che abbiano del successo, delle best practice, come si dice, poterle raccontare al meglio e poi insomma dimostrare che si può fare. Tutti possiamo diventare smart worker, a patto che naturalmente lo si voglia da entrambe le parti, sia come lavoratori che come datori di lavoro. Adesso è tempo di sentire cosa sta succedendo sulle strade italiane. Ho in sospeso il tema del che cosa bisogna fare, che tipo di accordo si firma con il datore di lavoro. Intanto 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi. È pronto anche Carlo dalla provincia di Venezia. Insomma, abbiamo un sacco di cose da fare dopo il traffico. Andiamo veloce allora. A tra poco. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Cuore e Denari. Muoviti, muoviti. E allora muoviti, muoviti. Comincia a muoverti, muoviti. E allora muoviti, muoviti. Mobilità, elasticità, flessibilità. Non vi stiamo parlando di sport e di attività fisica, ma vi sembrerà strano, stiamo parlando di lavoro, lavoro agile. Allora, per gli ascoltatori che chiedono la traduzione simultanea del termine smart working, possiamo definirlo così. È però un concetto molto più articolato e banalizzarlo con una semplice definizione è un po' difficile. Proprio per questo abbiamo organizzato un'intera trasmissione su questa novità che arriverà con un provvedimento di legge collegato alla legge di stabilità. 800 24 00 24, vi stiamo anche chiedendo se avete mai immaginato di cambiare le regole del vostro lavoro per adattarlo maggiormente alle vostre esigenze di vita, dal vecchio telelavoro, perché ormai un po' sta tramontando questa modalità, al part time. Avete mai pensato che questo potrebbe anche migliorare i vostri risultati professionali? Raccontateci come cambiereste il vostro lavoro e noi commenteremo le vostre testimonianze con Mariano Corso, responsabile scientifico dell'Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano. Gli ascoltatori, professor Corso, lamentano Il fatto che intanto si continua ad utilizzare per tutto ormai la terminologia in inglese, io ho cercato di dire che smart working sta per lavoro agile, però anche lì poi bisogna a sua volta tradurre questo concetto, lo abbiamo fatto nella prima parte della trasmissione. Lei ha sotto gli occhi un esempio concreto di un'azienda che consente ad un lavoratore di lavorare secondo questa modalità, poi magari le faccio il mio di esempio secondo il nostro modo di lavorare qui a Radio 24. Sono tantissime, come dicevo, noi le premiamo anche, le riconosciamo, c'è un accordo molto interessante che è stato fatto da Banca Intesa, ad esempio, che abbiamo premiato quest'anno e che riguarda ormai migliaia di lavoratori. Le parla di premio perché ricordo che avete organizzato gli Smart Working Awards. Sì. Questo è fondamentale perché bisogna riconoscere, dare il giusto riconoscimento alle aziende che fanno innovazione. Questo è un modo di fare innovazione e di ritrovare entusiasmo da parte delle persone. Quindi, allora, a quali lavoratori questa grande banca ha dato l'opportunità di lavorare secondo lo smart working? Perché immagino un direttore che deve confrontarsi ogni giorno con tanti clienti che chiedono i mutui, che chiedono un prestito, che chiedono una riorganizzazione, una revisione delle condizioni del conto corrente, magari per quella figura lì non è possibile, o sì? I manager, ad esempio, sono particolarmente facilitati nel fare smart working. Tra l'altro, quando il manager lavora da casa, secondo me tutti i suoi collaboratori lavorano meglio, devo dire una cattiveria. Detta così, l'ha detta proprio in maniera un po'... Proprio così, perché sono meglio. Nella serie quando il gatto non c'è i topi ballano, ecco. Ballano, si divertono, ma soprattutto secondo me lavorano meglio, perché sono meno interrotti, noi l'abbiamo misurato, sono meno interrotti, il capo che lavora a distanza riesce a programmare meglio, quindi perché no, anche i capi. E lei diceva chi si deve confrontare con i clienti, ma oggi in una banca per confrontarsi con i clienti bisogna andare spesso dal cliente oppure farlo telefonicamente, e quindi perché no, l'efficacia ad esempio di una telefonata di lavoro fatto da un luogo silenzioso e calmo, certo, come la propria abitazione è non molto doversi maggiore. Ammazzare per andare al lavoro perché magari quella telefonata è alle 8 del mattino, poterla fare da casa, arrivare in ufficio un'ora dopo perché comunque il lavoro parzialmente si è svolto. Certo. Senta Corso, un ascoltatore su Twitter ci scrive: smart working è lavorare 24 ore su 24, no indennità, vuol dire straordinari non retribuiti, è così? Questo è un triste purtroppo, può essere un rischio, ma questo non è smart working, cioè il rischio di super lavoro, no? Di intensificazione del lavoro c'è, delegato alle tecnologie che abbiamo che ci permettono di essere sempre connessi. In realtà lo smart working è proprio un antidoto a questo, no? Cioè cercare di andare a definire dei risultati e creare anche un rispetto verso le persone. Anche peraltro il disegno di legge da questo punto di vista è molto chiaro, cioè anche nel caso di smart working si devono applicare quelle che sono le giuste attenzioni ai tempi di riposo. Chiaro. Senta, che tempi ci sono per approvazione del provvedimento? È tutto legato alla manovra di stabilità? Saranno gli stessi tempi? Di stabilità, quindi io, se non ci sono sorprese, i tempi saranno molto veloci. Poi questa, guardi, è una legge in realtà che consente e dà discrezionalità a imprese e lavoratori per fare meglio, più tutelati. Certo, quindi diciamo è una legge cornice per poi chiaramente in ogni ambito di lavoro poter anche migliorare i termini contrattuali dell'accordo. Carlo da Venezia, sì, Nicoletta. Ci stava aspettando e poi vi leggo il messaggio di Ulisse. Carlo, buongiorno. Buongiorno a voi, Nicoletta e Deborah. Io vi ascolto sempre. Bravo Carlo. Bada che stiamo chiudendo, sì. L'auto è il mio mezzo di lavoro. Ok, niente, io volevo portare la testimonianza di mia figlia. Mm-hmm. Mia figlia che vive e lavora a Londra e che presso la società a cui lavora le permetto di fare questo tipo di lavoro. Il mondo anglosassone, come al solito, insomma, ci porta delle esperienze positive da emulare. Carlo, la ringrazio, voglio sentire al volo Alberto da Novara per poi andare all'ultima domanda al professor Corso. Alberto, benvenuto. Buongiorno a voi. Volevo intervenire brevemente La mia esperienza è l'esperienza di imprenditore di circa 300 persone nella quale ho cercato di innescare meccanismi di flessibilità come quelli che state descrivendo. Un suggerimento è il seguente: credo che poi le parti si debbano confrontare anche su un patto economico in senso stretto, quindi i dipendenti e l'azienda. Lo spunto potrebbe essere anche quello di condividere i reali risparmi di trasporto del dipendente tra l'azienda e il dipendente, questo semplicemente per fare in modo che questo tipo di meccanismo possa innescarsi con una velocità possa essere incentivante per tutti, anche per il datore di lavoro. Alberto, grazie per il prezioso suggerimento, lo trasferiremo, se ce la faremo, a Maurizio Del Conte, che è autore l'estensore materiale della legge. Professor Corso, abbiamo proprio 50 secondi per accedere al lavoro agile. Che tipo di accordo deve essere siglato fra lavoratore e datore di lavoro? Beh, è un accordo molto semplice, in realtà deve essere un accordo scritto in base al quale poi c'è una comunicazione da parte del datore di lavoro, e questo mette anche in condizione poi il lavoratore di essere pienamente tutelato dal punto di vista della sicurezza del lavoro, dal punto di vista dei controlli che lui può ricevere, quindi è un fatto di tutela di entrambe le parti. Un contratto molto agile, insomma, possiamo definirlo così. Professor Corso, purtroppo non riusciamo a spiegare altro, ma abbiamo tutto il tempo necessario per farlo in altre puntate, quando avremo il provvedimento definitivo, quindi a bocce ferme saremo in grado di dare tutte le indicazioni definitive. Grazie molte per essere stato con noi, buon lavoro. Grazie a voi, grazie. E congratulazioni a voi, per il vostro osservatorio. Noi che torniamo domani. Io mi sa che devo tornare tra poco con la borsa nel giornale radio. Allora, buona borsa. A tra poco.